da troppo tempo bloccato nel limbo come un bimbo. Ne ho morto, non me ne sono mai accorto e non ti do torto. So il cuore più sporco della merda che ho in corpo. Ti prego non pregarmi, tanto non ti ci porto. Gli scleri, gli ammala e tutto ciò che ho intorno. Tutto è stato scritto, tutto un suo percorso. Ma sono arrivato a destinazione. Mi sono familiari il tuo volto ed il tuo nome. Mescolo sostanze, continui déjà vu. Questa non ci scende, grazie Gesù. Pronostico il futuro, imposto basi solide. Dopo gli schiaffoni, carezze morbide. Fammi un sorriso, fammene un altro. Dimmi parole dolci, divento matto. Le cose che ho promesso sono marcate a fuoco. Tanto ti porto via, tranquilla manca poco. Finite le stronzate, porto avanti le promesse. Ricerco libertà, sensazioni più intense. È una vita che rinsegue gli errori, non li rinego. Porto avanti la mia storia nella gioia e nello sclero. Finite le stronzate, porto avanti le promesse. Ricerco libertà, sensazioni più intense. È una vita che rinsegue gli errori, non li rinego. Porto avanti la mia storia nella gioia e nello sclero. Accelero il mio passo più che posso e salto il fosso. Lo stronzo che d'intralcio è sempre più nascosto. Ci saranno i giorni chiari, ci saranno i giorni scuri. Questo mi servirà a rinforzare i calli duri. Sulle nocche delle mani che accarezzi dolcemente. Non sono sdolcinato, smarrone para sempre. Baciotti, baciotti, non ho ancora finito. Tranquillo Yulo, ma se mi sposo c'hai l'invito. Dopo anni di stronzate, un poco di ripiglio. Sul kit del tossicone ho messo un bel sigillo. Tutto mi è servito per analizzare ciò che da vedere e ciò che da buttare. Pronto ad affrontare giganti imbastarditi che guardano invidiosi i loro piani non riusciti. Ti auguro bei sogni, a te che sei l'ascolto. Chiudi gli occhi, buonanotte, ci si vede al nostro posto. Finite le stronzate, porto avanti le promesse. Ricerco libertà, sensazioni più intense. È una vita che li inseguo, gli errori non li rinego. Porto avanti la mia storia nella gioia e nello sclero. Finite le stronzate, porto avanti le promesse. Ricerco libertà, sensazioni più intense. È una vita che li inseguo, gli errori non li rinego. Porto avanti la mia storia nella gioia.